Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti, sono le 16.09, io sono Luca Tremolada, puntata ricchissima oggi, parliamo di psicoanalisi e realtà virtuale, vero Luca Dello Jacovo? Sì, e parliamo anche di come i mondi virtuali entrano nell'analisi, nella comprensione di se stessi e nell'affrontare poi ansie, paure, preoccupazioni. Sì, un po' tutto, videogiochi, insomma cerchiamo un po' di dare un taglio nuovo a un mondo che è sempre rimasto in un certo senso confinato sulle tecnologie, invece si sta estendendo, può diventare un aiuto, può diventare altro. Noi abbiamo in studio Giuseppe Riva, professore associato di psicologia alla Cattolica di Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. E abbiamo una scheda su Giuseppe Riva e su quello che sta facendo. Dimenticate il lettino dello psicoanalista e i salottini impregnati di fumo. La terapia psicologica si fa anche nei mondi virtuali, dove i pazienti imparano ad affrontare traumi, paure, insicurezze. In che modo? Le persone si siedono davanti a un monitor, rivivono le esperienze e sviluppano la capacità per superarle. Da anni Giuseppe Riva, professore di psicologia dell'Università Cattolica, esplora le opportunità degli ambienti digitali per aiutare i pazienti a guarire da fobie, stress post-traumatico e altri disturbi. Non sono progetti isolati. Riva e i suoi collaboratori hanno elaborato un software per costruire ambienti virtuali terapeutici. Il programma è scaricabile gratuitamente da chiunque su internet. Nel 2007 Riva ha ricevuto il premio Cyber Therapy Excellence. Insomma, fobie, stress post-traumatico, noi chiediamo ai nostri ascoltatori di chiamarci all'824-0024 o di scriverci al 349-238-6666 perché insomma, vediamo di capire in che modo lo psicologo online, che non è uno psicologo online quello di cui stiamo parlando, però insomma gli strumenti del web, di internet, della realtà virtuale possono aiutarci. Prima parlavamo con Giuseppe Riva di ragni, se non sbaglio, cioè, sì, esatto. Per capire di che cosa stiamo un po' parlando, ecco. Beh, cerchiamo di calare subito l'idea, perché la realtà virtuale può essere utile per affrontare e guarire una paura. L'esempio che raccontavo qui in redazione era quello dei ragni. Se io ho paura dei ragni, quello che faccio, cerco di evitarli il più possibile. In realtà la psicologia ci ha insegnato che il modo migliore per affrontare una paura è quello di essere esposti a ciò che ci crea paura. Esattamente il tipico comportamento di chi è guarito da questo problema. Se io ho paura di ragni, invece cerco di scappare. E quindi vediamo dei ragni virtuali, in effetti, dei ragni in un videogioco? Assolutamente, quello che noi vediamo è dei ragni che sono controllati, che il paziente vede, che vengono controllati dal terapeuta. Ragni è un esempio, ma in realtà il concetto è estendibile a tutte le forme di paura: paura di volare, paura dell'altezza, paura dei ragni. L'idea è quella di essere esposto a uno stimolo che è controllato dal terapeuta ed è comunque realistico, e progressivamente aiutare il soggetto a affrontare la sua paura. Quindi inizialmente il ragno sarà molto piccolo e starà fermo, poi il ragno diventerà più grosso, poi incomincerà a muoversi, poi si avvicinerà. E quanto tempo ci vuole perché una persona in genere riesca a superare poi questa paura? Dipende dalla lunghezza, da quanto il soggetto ha questa paura, però diciamo tipicamente tra le 10 e le 20 sedute a seconda della gravità. È anche poco. E poco, cioè non è tanto in realtà. Le fobie dal punto di vista psicologico sono una delle forme più facili, tra virgolette, da curare. È uno schermo. Quando parliamo di realtà virtuale, voi cosa intendete? Diciamo, esistono due setting tipici. Quello che noi usiamo tipicamente è con un casco immersivo, che ha il vantaggio di separare il paziente dal mondo in cui si trova, anche perché il problema è che altrimenti il rischio è quello di levitamento, io non voglio vedere il ragno. Invece con il casco di fatto me lo trovo davanti a me, e anche ruotando la testa per evitare lo stimolo ce l'ho sempre davanti. Ecco. Questo magari si sente anche più protetto il paziente. Contemporaneamente c'è una maggiore protezione, in più non c'è l'impatto sociale, cioè molte persone che hanno un comportamento di evitamento hanno vergogna a mostrare questo comportamento ad altri. A proposito di molte persone, chiaramente sto leggendo gli sms, ci chiedono sul sesso, cioè le fobie del sesso come le curate? Era inevitabile questa domanda. Beh, diciamo, io non personalmente non sono un esperto, c'è un collega che si chiama Gabriele Optale che affronta tutta la tematica, diciamo, i problemi sessuologici usando la realtà virtuale e usa un approccio che è chiaramente più di tipo narrativo, non so, per esempio, cioè? Affronta il problema della impotenza maschile usando delle metafore, il cavaliere che entra all'interno di questo mondo virtuale, gli si rompe la spada e va alla ricerca della spada. Andiamo, è bellissimo, ma andiamo due link, due indirizzi che si trovano queste. Gabriele Optale lavora a Venezia, adesso diciamo a Mestre. Me lo dice dopo e poi mettiamo gli indirizzi su Novalab24 twitter.com/Novalab24. Un'altra cosa che aveva scovato anche dello Jacopo era appunto un software che può essere utile per la costruzione di mondi virtuali che hanno progettato alla Cattolica e che in effetti serve, è una sorta di edilizia virtuale dove costruire degli ambienti per affrontare poi paure, panico. Esatto, perché un problema che abbiamo avuto all'inizio quando usavamo la realtà virtuale è che effettivamente per chi è uno psicologo interessato a questo tipo di tecnologia, il problema grosso ormai non è più il computer o il casco, che comunque hanno un costo di un migliaio, due migliaia, cioè costa relativamente poco, ma il software, che in realtà costa molto, farsi costruire un software specifico. Per questo abbiamo creato questo programma gratuito che si chiama NeuroVR ed è scaricabile da neurovr.org. E quindi è rivolto agli psicologi? Rivolto agli psicologi o anche chi voglia fare ricerca con la realtà virtuale, perché in realtà viene usato anche per studiare il comportamento di alcune persone. Io posso creare dei setting realistici in cui, per esempio, alcuni dei nostri, diciamo, colleghi stranieri lo usano come strumento per insegnare allo studente a affrontare dei colloqui di lavoro. Noi abbiamo uno di setting che è quello dell'ufficio, nell'ambiente virtuale io posso mettere anche dei video, quindi posso costruire dei video trasparenti usando il tecnico. E quello che vediamo quindi è una persona che entra nell'ufficio e che quindi affronta il colloquio e appunto può fare degli errori, una specie di trainings accompagnato, io verifico gli errori del soggetto e in tempo reale gli do dei suggerimenti per affrontare la situazione. Ecco, quindi è una preparazione preliminare, ecco, per esatto, una preparazione preliminare. E la usate anche poi per gli studenti, giusto? Esatto, noi abbiamo visto che uno dei problemi dei nostri studenti, anche quelli di psicologia, è che pur essendo molto preparati non vanno all'esame. E quindi questo è un problema più comune di quanto si pensa, cioè l'idea della perfezione, devo essere perfetto, devo prendere 30 e se non sono convinto di prendere 30 non mi presento all'esame. Questo è un problema che purtroppo genera è dietro la maggior parte dell'abbandono scolastico, persone che quindi avrebbero tutte le risorse per poter affrontare e superare gli esami, ma semplicemente hanno paura del momento dell'esame. Quindi hanno un ostacolo interiore, diciamo. Hanno un ostacolo interiore. Per aiutarle abbiamo creato un software specifico, in questo caso per iPod, visto che molti dei nostri studenti usano questo tipo, e anche per l'iPhone. Tutte le informazioni sono sul sito nonhopaura.com, che presenta un programma, diciamo, di rilassamento e di addestramento allo stress d'esame che dura una settimana. Ogni giorno è proposto nei primi giorni una situazione rilassante, quindi imparo ad acquisire alcune competenze per gestire, diciamo, lo stress. Nella parte finale del corso io vengo sottoposto allo stress dell'esame, vedo una persona che va a fare l'esame, che viene bocciata, e questo rappresenta un contesto in cui mettere in gioco quello che ho appreso. Bene, 824 0024. Io adesso passerei quindi da questo tema, che sono un po' in fobie, insomma si guarda un po' la personalità e quindi la psicologia, con Andrea Gaggioli, che è un ricercatore di psicologia sempre alla Cattolica, invece ha una cura un po' su patologie un po' più complesse. Prima sentiamo la scheda che ha preparato Luca Dello Jacopo di Andrea Gaggioli. La tecnologia è ostile all'uomo o sua alleata? Non ha dubbi Andrea Gaggioli, ricercatore dell'Università Cattolica. Ha dedicato un blog agli effetti positivi della tecnologia e alle sue applicazioni, soprattutto in campo medico. Gaggioli sperimenta la riabilitazione di pazienti che hanno subito danni neurologici, come le persone colpite da ictus. Laureato in psicologia a Bologna, è stato ricercatore al Fraunhofer Institute di Monaco. I suoi interessi riguardano le connessioni tra neuroscienze, tecnologie e psicologia. Da 2 anni lavora a un'iniziativa, Open Genius, per finanziare progetti scientifici e culturali attraverso internet. Ecco, la voce di Gaggioli la riconoscerete anche perché è la seconda volta che noi torniamo a parlare con lui, anche perché abbiamo ricevuto molte mail in cui si chiedevano qualche dettaglio in più sulle ricerche che conducete sull'ictus. Ci faccio un esempio per capire bene. Allora, il razionale dell'uso della realtà virtuale, dei mondi virtuali nella riabilitazione neurologica non è poi tanto diverso da quello ben spiegato dal professor Riva. Si tratta di permettere ai pazienti di sperimentare dei movimenti che non riescono più a fare in un ambiente virtuale, un ambiente simulato, un ambiente protetto in cui riescono appunto ad esercitarsi e a cercare di ricostruire quel programma motorio, che poi è il software, diciamo, che guida i movimenti, che è andato perduto a causa del danno cerebrale. Ecco, in che modo si esercitano però all'interno dell'ambiente virtuale pazienti per esempio colpiti da ictus? Faccio un esempio tipico. Supponiamo che il paziente debba esercitare l'arto superiore, cioè il braccio. Il movimento, l'esercizio più tipico della fisioterapia è quello di effettuare l'afferramento di un oggetto. Nella realtà virtuale si presentano ad esempio delle palline in movimento che il paziente deve riuscire ad afferrare, e quando le afferra guadagna un punteggio, come un videogioco. Ha un guanto che permette di rilevare appunto le informazioni del movimento e trasferirle nell'ambiente virtuale. Tutte le volte che prende la pallina guadagna un punteggio. Via via che apprende a fare questo movimento, il livello di complessità sale, e in questo modo, diciamo, avviene l'apprendimento. Ecco, migliora però la sua condizione anche, immagino, psicologica. Motivazionale. Sì. Infatti l'aspetto, diciamo, fondamentale di questo tipo di esercizi è l'aspetto motivazionale, perché innanzitutto il paziente diciamo si esercita divertendosi, e in più riesce ad attribuire a se stesso i successi che sono visibili attraverso, diciamo, il superamento dei livelli di complessità. Comunque, la logica non è molto distante dal cavaliere, cioè insomma dalla parte narrativa che abbiamo visto prima. Cioè, il mondo virtuale sostanzialmente crea una storia. Esattamente. Cioè cala la persona in una storia e muovendosi la persona all'interno di quella storia permette allo psicologo di capire le reazioni e di... L'ho detto giusto? Ho capito? Ha detto benissimo. Quello che lei ha detto tecnicamente si chiama presenza, cioè sviluppare un senso di presenza all'interno di un ambiente simulato virtuale significa esattamente questo. Coinvolgere il paziente in una storia simulata, come quando uno legge un libro, ma in questo caso il libro è interattivo. Perfetto. Allora, noi abbiamo anche in collegamento Chittaro, no? Buongiorno. Buongiorno. Chittaro. Chittaro, ecco, lo sapevo che lo sbagliavo. Tra l'altro, autore di Nova, lo conosciamo, ha anche un blog su Nova 100 e anche lui ha una bellissima scheda di Luca Dello Jacopo. Immaginate che una persona distesa sul letto abbia bisogno di soccorso. Quali operazioni dovranno compiere gli infermieri? L'Università di Udine ha progettato un corso per l'addestramento del personale sanitario all'interno di mondi virtuali. Non è un videogioco, ma una simulazione realistica e riproduce una situazione di pericolo. A guidare l'iniziativa è stato Luca Chittaro, docente di Computer Science. 11 anni fa ha fondato il laboratorio di interazione uomo-macchina, uno spazio dove i ricercatori analizzano e sperimentano applicazioni per migliorare la vita delle persone. È il più grande centro di ricerca universitario in Italia ad esplorare il rapporto tra persone e tecnologie. Chittaro è autore di più di 150 studi scientifici. Al talento per i numeri unisce la passione per le note. Suona regolarmente in un gruppo musicale. Allora, professore, abbiamo raccontato tutto. Sì. Allora, la sua iniziativa è estremamente interessante, perché noi abbiamo anche i video su YouTube dei suoi Serious Game che abbiamo messo anche su Facebook e metteremo sul Twitter. Insomma, sono giochi molto seri in realtà. Sì, nel senso che lo scopo è serio, lo scopo è quello attraverso il videogame, quindi attraverso una forma di realtà virtuale particolarmente coinvolgente e anche, perché no, può essere divertente, no? Ottenere però degli obiettivi positivi, quindi cambiare la vita delle persone, far imparare qualcosa di nuovo che le persone non sapevano e che possono poi inglobare nel loro comportamento quotidiano. Il caso che avete citato nella scheda riguarda gli infermieri del 118, quindi in quel caso si tratta di abilità professionali. Attraverso il gioco si familiarizza con delle situazioni che poi si incontreranno nella pratica lavorativa, nel soccorso. Però esistono anche serious game che si rivolgono a chiunque. Ad esempio l'altro serious game su cui stiamo lavorando e del quale c'è il video su YouTube riguarda gli incendi. Non si presta tanta attenzione al fatto che oggi continua a morire tantissima gente negli incendi. Non fa molta notizia perché sono casi isolati qui e là, ma i videogiochi come possono aiutarci però ad affrontare gli incendi? Giocando al videogioco, quindi trovandoci nel videogioco a dover affrontare situazioni dove dobbiamo sopravvivere, l'obiettivo è quello di salvarsi da un incendio, abbiamo modo di sperimentare giocando tutte le azioni positive e quelle sbagliate e di apprenderle. Attenzione che è molto diverso dall'approccio, l'approccio tradizionale è quello, ad esempio, quando entriamo in un hotel o sul posto di lavoro, di darci delle brochure da leggere, no? Questo viene fatto da decenni e si vede che non è efficace, cioè quando arriva il momento dell'incendio le persone non mettono in pratica le cose che sono scritte su quei fogli. Il gioco permette di fissare meglio in memoria, nella nostra memoria, cosa bisogna fare. Ad esempio, non bisogna prendere l'ascensore durante un incendio, questo c'è scritto sui foglietti, però poi nella pratica le persone, magari perché sono salite con l'ascensore... Chiaramente quando lui gioca, sì, lo fa, per cui lo impara meglio, diciamo, learning by doing. Cioè c'è una... ma non solo, c'è l'aspetto emotivo, no? Tra l'altro, volevo chiedere al professore Chittaro di capire anche lo stato dell'arte, se ci sono degli studi che mettono in relazione videogiochi e apprendimento. Di studi sui videogiochi ce n'è di vario genere. Perché c'è un'annosa questione, insomma, noi giornalisti ogni una volta circa la settimana riceviamo il solito rapporto: attenzione mamme, i videogiochi fanno male, teneteli lontani. Il videogioco sì, può fare sia male che bene, nel senso che con il videogioco noi alla fine viviamo delle esperienze di vita, sono virtuali, però sono riprodotte talmente bene che le associamo sempre di più a un'esperienza di vita reale. Non so, ad esempio, provate ad ascoltare le persone che raccontano di un videogioco e le persone che raccontano di un film. Se uno è stato al cinema vi racconta: ah sì, ho visto Brad Pitt che ha sparato a Julia Roberts e poi è arrivato il cattivo. Una persona che ha giocato al videogioco l'ascoltate e dice: ho massacrato tutte le persone che erano al bar, zombie, ecco. Sono stato coltellato in strada mentre correvo sulle montagne del Canada. Cioè, ci sono anche giochi pacifici, però non sono tutti pochi, però è pochissimo. Vabbè, ho fatto degli esempi su alcuni giochi particolarmente popolari, ma il punto è, se ascoltate il linguaggio di chi racconta il proprio rapporto con il media videogame, vedete che usa lo stesso modo di esprimersi delle esperienze di vita reali, mentre quando racconta qualcosa che ha visto in TV o al cinema è conscio di essere stato spettatore, le racconta come spettatore, quindi cambia il modo proprio in cui le memorizziamo già il linguaggio è un indicatore, però adesso c'è anche chi sta andando oltre la scatola cranica e iniziano ad esserci studi, ne ho letto uno recentemente che è apparso su Frontiers in Neuroscience, dove fanno vedere che quando si gioca un videogioco, a differenza di quando si guarda la televisione, scatta una rete complessa di varie parti del cervello che si attivano e che riguardano varie attività sensoriali, decisionali. Anche la memoria? Certamente, ad esempio nel caso nell'esempio del videogioco che abbiamo sviluppato sugli incendi, prima facevo l'esempio dell'ascensore, no? Bisogna imparare a non prendere l'ascensore. Nell'apprendimento tradizionale, allora, un foglietto mi ha detto che non devo prendere l'ascensore. Questo è più difficile da ricordare. Invece, sono morto in ascensore, cioè ho avuto l'esperienza di morire in ascensore, vedendo il fumo che saliva, mi annebbiava gli occhi, mi sentivo tossire, sentivo il mio battito cardiaco aumentare. Questo è dimostrato che se noi, quando dobbiamo imparare qualcosa, lo leghiamo a delle emozioni, è più probabile che si trasferisca quell'informazione in memoria a lungo termine, quindi certo, ce lo ricordiamo poi anche per sempre. Grazie Kitaro, torneremo su questo tema prestissimo, ma io volevo, a proposito di videogiochi, anche se non c'entra poco, però c'entra un aspetto ludico, introdurre Paolo Conti. Buongiorno. Buongiorno. Che l'abbiamo invitato, tra l'altro l'avevamo già invitato a parlare del suo libro sul cibo, ma questa volta l'abbiamo invitato perché è un po' un pozzo di idee lui, e oggi ci presenta Too Lazy to Do It. Di che si tratta? Pozzo di idee letteralmente, esatto. Infatti è arrivato qui attaccando adesivi a destra e manca, però, sì, come potete vedere anche per i telespettatori nel lato destro dello schermo che c'è un adesivo. In radio, tu lo sai che siamo in radio, andiamo avanti, va bene. No, comunque Too Lazy to Do It è un'iniziativa totalmente non profit, un'iniziativa internazionale, ed è un sito che serve a chi ha voglia di condividere o di trovare idee imprenditoriali che o non sono ancora mai state realizzate al mondo, oppure sono già state realizzate da qualche parte ma possono essere replicate. Le più belle. Sì, tutto è nato, vi racconto più o meno in un secondo come è nato, perché io ho sempre avuto tante idee imprenditoriali nella vita, ma per motivi di tempo, denaro, contatti o perché sono troppo pigro per farlo, ovvero too lazy to do it, molte di queste non le ho realizzate. Allora mi sono detto, siccome dentro di me so bene che in fondo non le realizzerò mai, perché portarle nella tomba? È molto meglio regalarle sull'internet in modo che qualcuno in Bangladesh o in California o da qualche altra parte possa realizzarle lui. Ho deciso di non chiedergli niente se non, se ha voglia, di raccontarmi com'è andata. Fase 1. Fase 2, ho chiesto a tutti quelli che venivano a vedere il sito, che sono tanti e stanno crescendo, di fare la stessa cosa, quindi ognuno può postare la propria idea imprenditoriale. E questa cosa, diciamo, ci sta un po' sfuggendo alle mani, perché si sta generando una comunità abbastanza rilevante nel mondo, perché il sito è interamente in inglese, almeno per il momento, quindi è molto letto, soprattutto negli Stati Uniti, UK, India e così. Ridici un attimo il link. Il link è www.toolazytodoit.com, tu con due O, cioè sì, no, lo scriveremo su NovaLab e naturalmente anche su twitter.com/toolazytodoit. Una comunità di pigroni, quindi? Sì, tutti pigri, ma in realtà poi non pigri, perché c'è dell'ironia, ma allora le idee che ci sono alcune sono utili e interessanti, alcune sono assolutamente ilari. Dicene due. Ma non so, uno si è inventato per esempio una macchinetta che produce ricevute false, no? Non so come si possono utilizzare, ma insomma questa macchinetta che ti partiamo produce... Partiamo da quelle illegali. Esatto, da quelle illegali. Un altro si è inventato, sempre nel tema dell'illegalità, si è inventato, vende via internet dei file volutamente rotti. Perché per lo studente che deve mandare magari la tesi al professore gli arriva rotto, e così dice: ah, professore, mi spiace, guardi, purtroppo era venerdì, glielo porto domani, no? Oppure in America c'è un signore che vende i tumbleweeds, di cui dicevamo prima, che sono quelle specie di oggetti che rotolano, fatti di, avete presente nei film western, no? Ci sono queste cose che rotolano, i batuffoli esatto, e sono belli, no? E nelle case etniche usano molto, e quindi di questo che abita lì si è inventato questo sistema via internet per vendere questi affari, e sta facendo oggettivamente denaro. Queste sono idee realizzate, ma se volete poi ve ne racconto le altre che invece ancora non sono state realizzate. Tra l'altro noi abbiamo in collegamento Giancarlo Vergori, che è responsabile di digital media di Matrix. Buongiorno. Che voi un'idea l'avete lanciata pochi giorni fa, si chiama Virgilio Singring. Ci raccontate che cosa avete combinato? Allora, uno, mi piace questa cosa qui di una voce che parla di Virgilio, perché Virgilio, essendo un media senza voce, racconta delle cose che sono questo accordo che abbiamo fatto con Digital Magic, un servizio musicale dove abbiamo messo insieme con la Federazione Editori Musicali i diritti, e questa è la cosa. Quindi è un social network per la musica. Non è proprio uno social network, e finalmente, siccome c'è questa grande querela con la musica, come sapete bene tutti quanti, su internet, eccetera, eccetera, ecco, finalmente il primo servizio in Italia dove i diritti sono presenti, dove ci sono 1 milione di testi musicali, le lyrics, come si chiamano in gergo, da consultare, e dove ci sono i diritti di sincronizzazione. Cosa si fa con i diritti di sincronizzazione? La prima cosa che è importante è il karaoke, quindi ci sono già 350 brani in karaoke. Quindi avete fatto un karaoke online sostanzialmente? Sì, è qualcosa di più, perché poi internet e tutto il mondo dei profili, cioè sto parlando della community eccetera eccetera, non solo uno può così studiare il brano, ma può anche registrarsi, uploadarlo, condividerlo con gli amici. Tutto gratis? Sì. Tutto gratis. Mm. Il modello di business che vi è dietro è quello dell'advertising. Quindi ma si può anche cantare con persone a distanza, quindi? Si possono fare moltissime cose. Ad esempio, la cosa che mi... adesso non è ancora disponibile, però il concetto di ring, cioè faccio le sfide, vedo il video già caricato e quindi su quel brano ti sfido, lo canto meglio, lo suono meglio, anche perché ci sono due canali, c'è il canale vocale e c'è anche il canale musicale, che attenzione non è un MIDI, è proprio un arrangiamento dello spartito originale, dove appunto si può, se uno fa il cantante, annullare la voce e cantarci sopra, oppure al contrario, se uno invece un musicista suona la chitarra, sentire sopra la voce e accompagnarlo con la chitarra. Grazie Vergori. Io volevo tornare invece a Paolo Conti. Voi sulla musica, che è un po' un laboratorio per internet, ti sulla musica colgo in fallo. No. Per esempio, proprio la settimana scorsa abbiamo pubblicato un'idea che tra l'altro è italiana, però di cui sinceramente non ricordo il nome in questo momento, ma è un'idea di una radio che è in grado di trasmettere via internet musica legata alle tue emozioni. Quindi se tu sei triste, scrivi triste e comincia a farti sentire della musica triste. Se tu invece sei in cerca di creatività, scrivi creatività e via dicendo. E che la seleziona un signore. È un signore tutto fatto di transistor, suppongo. Però le idee sono tante. Ve ne racconto per esempio una che ancora non è stata realizzata, e questa è un'idea seria. E hai un minuto. È un'idea seria in un minuto. Ok, si chiama Miles for Charity, questa è l'idea, e ci sono migliaia di manager nel mondo che accumulano miglia delle linee aeree e non hanno il tempo di usarle, quindi le lasciano scadere da una parte, dall'altra parte ci sono migliaia di associazioni senza fini di lucro che devono mandare persone nel terzo mondo o insomma nei paesi in via di sviluppo e hanno bisogno di voli aerei. L'idea è di creare una community online che permette di far unire queste due comunità, inventando un modo di fare charity totalmente nuovo e rivoluzionario, perché io non darò più 50 euro ad Amnesty dicendo vabbè, sto a posto così. No, io pagherò il biglietto aereo a quella persona che deve andare a fare quella cosa in quel luogo, e magari quella persona mi ringrazierà anche. Ascoltatori si domandano, sì, ma tu com'è che guadagni? Cioè, facendo un po' il provider di idee Il punto è questo, che al momento da un anno il sito è attivo e io non ho guadagnato una lira, anzi ho speso circa 500 euro al mese per farlo e non ho intenzione di guadagnare una lira nemmeno in futuro. Cioè questo sito resterà per sempre non profit. E ci piace questa cosa. E ci piace così. Poi l'azienda che io ho fondato guadagna in altri modi, ma insomma il progetto sulle distribuite rimarrà per sempre. Che poi questa è una chiave di internet estremamente... Ma vuoi mettere la soddisfazione unire migliaia di persone nel mondo che hanno una creatività... Infatti. È un po' come Wikipedia alla fine, cioè il lavoro volontario che viene fatto nel tempo Wikipedia, libero, esatto. Però ognuno poi ha una sua fonte di guadagno. La crisi finanziaria ha aguzzato l'ingegno, questo l'abbiamo scoperto. Ecco, io vorrei invece tornare con i due professori di psicologia della Cattolica per avere, semplicemente per capire cosa ci possiamo aspettare dall'utilizzo della realtà virtuale nei prossimi anni, cioè quali sono le frontiere, quello che ancora a me veniva in mente, si possono ricreare con le realtà virtuali dei ricordi, ci sono un sacco di film di questo tipo. Lo chiedo a Gaggioli. Ricreare dei ricordi in che senso? Cioè, uno dei film più classici è la persona messa dentro un mondo virtuale dove creano dei ricordi che non ci sono, per cui creo una specie di aver vissuto una vita che non c'è, che non esiste. Come Minority Report. Minority Report. Cioè, sorta di installare dei ricordi artificiali. No, Sì. Ma, diciamo, secondo me questa è più una frontiera che riguarda tutta l'area della cosiddetta brain computer interface, cioè l'interfaccia tra cervello e computer più che la realtà virtuale. In questo settore sicuramente c'è un'area che riguarda, diciamo, l'installazione di protesi artificiali all'interno del cervello, e una frontiera ad esempio è quella della cura della depressione grave, non trattabile in, in altri modi. La Food and Drug Administration americana ha approvato un cosiddetto fase 2 study, cioè uno studio, diciamo, avanzato di sperimentazione di questa tecnologia. Ah, ricordo a tutti, se avete delle domande per i due professori universitari, loro si sono resi disponibili a rispondere. Se ci scrivete quindi a novalab24@radio24.it, io farò un po' come fa Paolo Conti, smisto le idee e insomma farò un po' girare le domande. Noi abbiamo finito, io saluto. Ricordiamo il Twitter di Novalab, www.twitter.com/novalab24, e ricordiamo che ci ritroviamo lunedì e parleremo di sicurezza informatica. A lunedì. Novalab 24.